È uscito a fine ottobre il fumetto La vita della mia ex per come la immagino io e oggi sono qui a parlarne con Eliana Albertini, la fumettista che lo ha realizzato insieme a Gero Arnone. E ciao Eliana, bentornata. Ciao, ciao, grazie. Allora, siamo qui appunto per parlare di questo tuo fumetto che tra l'altro presenterai qui a Bologna domani, ma insomma ne parleremo dopo. Volevo partire in realtà da questa collaborazione, appunto perché è stato composto a quattro mani, le tue e quelle di Gero, quindi non posso non chiederti come è stato lavorare con lui, come vi siete incontrati, come è nata l'idea del fumetto. Allora, l'idea del fumetto è nata da Gero e infatti io mi sono introdotta, diciamo, quando lui mi ha mandato le cose da leggere. E è stata l'editrice Carlotta Colarieti che ci ha abbinati, diciamo, perché aveva visto che insomma questa cosa poteva essere vincente, quindi ha voluto fare questo tentativo e secondo me è stato, io l'ho ringraziata molto, insomma l'abbiamo ringraziata molto perché alla fine è stata un'ottima intuizione. E perché ci siamo trovati molto bene, nel senso che io quando ho avuto in mano le cose scritte da Gero ero gasatissima per partire a disegnarle e di questi scritti diciamo che mi piaceva molto il fatto ovviamente che facessero ridere e io sono molto appassionata comunque di storie comiche, ma è sempre una cosa che per me è stata molto difficile scrivere perché ovviamente far ridere credo sia abbastanza difficile anche rispetto a far piangere probabilmente, quindi ero molto felice di poter lavorare a qualcosa di così divertente e che funzionasse così bene. E infatti la vena comica, diciamo che è evidente in ogni pagina, insomma, di questo fumetto, ti volevo chiedere com'è stato restituire una vena comica di un'altra persona, nei tuoi disegni? Ah, lì probabilmente è stata veramente questa la fortuna, il fatto che comunque io e Gero fossimo abbastanza, cioè abbastanza molto allineati sul piano comico e questo, vabbè, io lo notavo anche prima di lavorare a questo libro, io lo conoscevo e mi piaceva molto il suo lavoro e ci notavo, cioè mi piaceva perché proprio rispecchiava un po' qual era il mio ideale di umorismo. E quindi per me è stato divertente lavorare con il fumetto su qualcosa che mi piaceva così tanto perché mi sono sentita molto libera di sperimentare e al tempo stesso mi sentivo abbastanza tranquilla nel lavorare a qualcosa che comunque era nelle mie corde, quindi comunque non è stato difficile per quello perché anche se era scritto da un altro autore, cosa che è la prima volta che lo faccio, comunque sentivo un qualcosa, sentivo che potevo metterci qualcosa di mio e infatti poi è stato così. È stata un'accoppiata vincente, insomma, possiamo dirlo, e si vede anche da come è riuscito il fumetto. E dicevamo appunto che lo presenterai qua a Bologna, tra l'altro in una modalità molto particolare perché non sarete soli, ecco. Sì, allora lo presentiamo domani al Dumbo alle 18 e a presentarci ci sarà Matteo Fallica, che insomma penso che per chi è di Bologna lo conosce, e è uno stand-up comedian molto bravo secondo noi e ci piaceva l'idea di fare una presentazione un po' diversa, insomma di rendere giustizia anche alla comicità che è contenuta dentro il libro, creando comunque della comicità anche su un piccolo palco, ecco. Senti Eliane, come ultima battuta finale invece ti volevo chiedere se ti va di raccontarci un po' la trama del libro raccontata appunto da te, ecco. Allora, qua Perché non è l'esperto è semplice, Gero, secondo non è me. semplice e infatti, allora io posso dire che è una serie di racconti. Sono autoconclusivi, però ovviamente sono collegati fra di loro da tutta una serie di sia frasi, battute, ma anche da una serie di soluzioni grafiche. Ci sono alcune parti che sono abbastanza realistiche, cioè ci sono delle parti in cui è Gero protagonista, anche se comunque si tratta di finzione, non è autobiografico, però sono parti molto realistiche che però si intervallano da delle parti completamente fantastiche e fuori di testa, diciamo. Però entrambe queste due cose parallele hanno in comune il fatto di raccontare di situazioni sentimentali abbastanza disastrose. Per citarne una, che è anche la nostra preferita, è la storia del Titanic, però raccontata dal punto di vista del prometto sposo di Rose, quindi Caledon, che sostanzialmente è uno a cui Rosa ha messo le corna. Quindi diciamo, vedere il suo punto di vista ovviamente ribalta un po' la storia, e se nel film è un po' quello antipatico, in questa storia molto drammatica, che fa anche molto ridere, però non si può non empatizzare con lui. Quindi diciamo che sono storie che ribaltano molto il punto di vista continuamente, quindi alla fine è bello fare delle considerazioni, soprattutto, sì, però comunque di base parla di storie d'amore abbastanza fallimentari, e credo che chiunque possa avere dei link per questo tipo di storie, ecco. Certo, tra l'altro è anche la mia parte preferita, quella del Titanic, veramente geniale. E niente, non ci resta che insomma invitare veramente tutte e tutti a esserci domani e a leggere il fumetto, perché si capisce molto di più leggendolo, ecco, la Sì, trama. assolutamente. Grazie, Bene, Liane, io ti ringrazio e ci vediamo domani al Dumbo. grazie, a domani.